azzurro qua giù quest'amore. Pizze calde, baba, vino in gran quantità quest'amore. Quando poi suona il mandolin, di di di, canterai vita bella. Danzerai di petit petat, di petit petat, una gran tarantella. Oh che bella! Nel chiarore lunar tu vedrai mare chiar quest'amore. Se scugnizzi e sciuscia fan valdoria quella questo amore. Ma se poi la guagliona dirà voglio darti il mio cuore, scorda tutto e comincia a cantar questo amor, questo amore. Luna rossa lassù, mare azzurro qua giù questo amore. Pizze calde, baba, vino in gran quantità questo amore. Quando puoi suoni mandolin, dili dili din, canterai vita bella. Danzerai tipe tipe ta, tipe tipe ta, una gran tarantella. Oh che bella, nel chiarore lunar tu vedrai mare chiar questo amore. Se scugnizze sciuscia fan baldoria quella questo amore. Ma se poi la guagliona dirà voglio darti il mio cuore, scorda tutto e comincia a cantar quest'amor, quest'amore. Quest'amor, quest'amore.